deciso a uscire stasera. Parli, parli, io spero che si interrompa la cameriera e verso apposta vieno sul parquet. E dovevo stare coi miei gatti a casa come tutte le notti. Le loro fusa sono molto meglio dei tuoi discorsi. Ma io me ne sbatto, me ne vado in letargo, perché la gente mi sta sul cazzo. Dimmi perché iniziare a conoscerci, a volerci bene, che tanto poi finirà male. L'entropia può solo aumentare. Dimmi perché iniziare, se è l'universo che ci vuole male, che ci affanniamo per stare. Casinato di come è cominciato, anche se non ce l'hanno raccontato. È l'irrazionalità che muove il mondo, dietro a quel cielo blu di merda non c'è niente. Tutto finirà più incasinato di come è cominciato. Non può che essere così se ci fai caso. La vita nel perfetto esempio, e mentre canto tu stai degenerando. Così me ne sbatto, me ne vado in letargo, perché la gente mi sta sul cazzo. Dimmi perché iniziare a conoscerci, a volerci bene, che tanto poi finirà male. L'entropia può solo aumentare. Dimmi perché iniziare, se è l'universo che ci vuole male, che ci affanniamo per stare bene, ma tutto può solo degenerare. L'irrazionalità che ci guida ci ha fatti così. Siamo predisposti ad iniziare, e solo per generare disordine per lei che se ne nutre. Ecco perché iniziare.